baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Crisi finanziaria mondiale. Per il rilancio servono tempi brevi. Crisi di credibilità e credit crunch rischiano di trascinarsi. Abbiamo non più di un mese di tempo. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini. In regia con noi Carmelo Lauricella. Il Sole 24 Ore, intervista in esclusiva un premio Nobel per l'economia, Edmund Fels, che dà dei giudizi molto severi sulla crisi finanziaria in atto e detta anche i tempi necessari per uscire dalla crisi. A intervistarlo è Mario Margiocco, inviato a New York del Sole 24 Ore. E chiede Margiocco: professore, aveva pensato che potesse finire in modo così pesante? Che dovesse finire male lo avevo previsto, come altri, per vari motivi, ma onestamente non avevo messo a fuoco che potesse finire così male. Un fenomeno era chiaro: la folle corsa dei prezzi immobiliari e l'eccesso di cartolarizzazione dei mutui. Ma quello che non avevo ben chiaro fino a pochissime settimane fa era l'eccesso di concentrazione in un settore solo nella finanza di questi titoli. Non pensavo, non avevo previsto una interconnessione così forte con le capacità di fare credito e la sopravvivenza finanziaria di case storiche. Anch'io, osservando ad esempio la disoccupazione, ritenevo che questo rallentamento della crescita stesse procedendo in modo non pessimo, poco oltre il 4% contro il 6% e oltre dell'ultima volta. Risponde così Edmund Fels, ripeto, premio Nobel per l'economia, in un'intervista esclusiva del Sole 24 Ore a Mario Margiocco. Il crollo finanziario e il blocco dei mercati del credito poteva essere previsto? Beh, avrebbe dovuto esserci chi sapeva un po' meglio che cosa le varie Lehman Brothers e Merrill Lynch, per citare i due casi esplosi, avevano in portafoglio, anche se non era semplice, data la scarsa supervisione di cui hanno finora goduto le banche di investimento, e poi non avendo ben capito neppure io che pure di questi eccessi finanziari sono sempre stato critico, non voglio gettare la croce addosso a nessuno. Ma Fed e Tesoro non potevano agire prima? Sarebbe stato difficile, risponde il professore americano premio Nobel. Agire in questo caso significa prendere decisioni drammatiche. Allora proviamo a immaginare che cosa sarebbe successo se Hank Paulson, una bella mattina di, diciamo, appena un mese fa o poco più, e dopo essere riuscito nell'impossibile impresa di convincere due leadership del Congresso a un'azione preventiva, avesse annunciato che acquistava i titoli Malconci dell'immobiliare a 65 centesimi sul dollaro. Ci sarebbe stata una tremenda resistenza. Ecco, e così il punto forte di questa intervista di Fels al Sole 24 Ore, fatta da Mario Margiocco, è sui tempi. E i tempi, e così risponde il premio Nobel, è quello che più mi preoccupa. Devono essere brevissimi, un mese o poco più. Se le banche hanno due anni e la cifra offerte come comprensibile piuttosto bassa, se possono cincischiare e la crisi di credibilità, il credito crunch, si trascinano, vedremo se sarà questa o la prossima amministrazione a gestire la patata bollente. Il tempo stringe, questo è l'avvertimento che viene dato da Fels, premio Nobel, sulla crisi finanziaria che si è abbattuta sulla comunità finanziaria mondiale, in particolare sugli Stati Uniti. Il Sole 24 Ore apre con aumenti anticipati agli statali, Tremonti, finiti gli assalti alla diligenza e ancora pressione fiscale al 43,1%. Il Sole 24 Ore si occupa anche ovviamente di Alitalia ed è Gianni Dragoni che scrive un articolo: Air France e Lufthansa vogliono gli slot da Milano-Roma. Vedremo che tutti qui parlano di Lufthansa, invece qui abbiamo una diversificazione. Air France KLM, e Lufthansa puntano direttamente al cuore del trasporto aereo italiano. I due vettori hanno dribblato le insidie politiche sindacali della privatizzazione Alitalia, nella quale restano alla finestra, chiedendo alle autorità le bande orarie in gergo slot per volare da Milano Linate a Roma Fiumicino, la più redditizia rotta italiana. Gli slot sarebbero disponibili in caso di fallimento di Alitalia. Ecco, questa è una notizia un po' particolare su Alitalia, che viene data da Sole 24 ore da Gianni Dragoni, e che ci dice appunto che insomma c'è anche questo interesse di delle due principali compagnie europee per gli slot italiani. Allora però rimaniamo qui, perché la stampa punta invece direttamente, il primo titolo della stampa è su Alitalia, la carta Lufthansa, il premier accelera per coinvolgere i tedeschi, aperture da Veltroni ed Epifani. Sappiamo tutti dalle notizie dei GR che Walter Veltroni ha scritto al premier Silvio Berlusconi proponendogli di riaprire la trattativa, e in qualche modo avendo la certezza che dietro di lui c'è Epifani, o viceversa, dice qualche commentatore. Vediamo cosa scrive Augusto Minzolini. Ritirata a sinistra. A volte, per comprendere nelle fasi più confuse le logiche dello scontro politico, bisogna rivolgersi a personaggi più pragmatici, quelli che sono usi dire pane al pane e vino al vino. Ugo Sposetti, tesoriere dei DS, è uno di quelli. E il personaggio venerdì scorso, in uno dei corridoi della Camera, sintetizzava con queste parole lo stallo nella trattativa per la vendita di Alitalia alla CAI. Epifani, quando ha deciso di rompere, ha preso una toppa, e dietro il suo errore c'era lo zampino di Veltroni. Questo avrebbe detto Ugo Sposetti, tesoriere dei DS. Da allora, con il passare dei giorni, la CGIL e il vertice dei PD, sondaggi alla mano, hanno capito di aver toppato davvero e hanno tentato di riaprire la trattativa per non finire insieme ai piloti sul banco degli imputati del possibile fallimento. Hanno preso tempo, hanno parlato di inesistenti proposte straniere alternative alla CAI. L'unica che è arrivata sul tavolo del commissario Fantozzi è stata quella del presidente venezuelano Chavez. Hanno chiesto l'intervento del governo. Ecco, questo dice, ma insomma Lufthansa subito dentro con una quota del 25%, questa sarebbe l'ipotesi. Alcuni sostengono, Sacconi per esempio dice, smentisce i contatti col governo tedesco, ma i giornali invece insistono e dicono che sarebbe proprio Silvio Berlusconi che starebbe ritentando un'operazione per mettere insieme la vecchia cordata CAI e la compagnia tedesca. Questo è quanto emerge. Voglio solo leggervi invece cosa scrive, a proposito di Veltroni, di Berlusconi, Iena, alias Riccardo Barenghi, commentatore editorialista della stampa, che Iena a Silvio: ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te, tuo Walter. E con questa Iena in realtà riprende le parole di una vecchia canzone di Gianni Morandi per dire insomma che Silvio Walter Veltroni ritorna a Canossa da Silvio Berlusconi. Questo il quotidiano La Stampa poi si occupa di Berti, l'ex parà che guida il fronte dei piloti in rivolta. Questo per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Ora, per il tempo che ci rimane prima delle anticipazioni del GR, io volevo segnalarvi, poi magari lo riprendiamo, una strana, dico strana perché assonanza tra due quotidiani che sul tema Sicilia. La Repubblica è Libero, perché se li prendiamo assieme vediamo che cosa dice La Repubblica. Su tema, il taglio è diverso, però diciamo hanno tutti e due di mira la Sicilia. La parentopoli siciliana tra assunzioni e gratifiche. Nella regione di Lombardo un esercito di collaboratori per ogni assessore. È Attilio Bolzoni che scrive di questo. E Libero invece scrive bancarotta Sicilia. La regione non riesce riesce più a fronteggiare le spese per retribuire il personale, 6 volte quello della Lombardia, e il comune di Catania è in procinto di chiudere per fallimento. Un saluto di nuovo da Bruno Perini, dagli studi di Radio 24. Prima dell'interruzione avevo segnalato 2 servizi sulla Sicilia, molto duri, La Repubblica e Libero, diversi per il loro taglio, ma vediamo cosa scrive La Repubblica. Attilio Bolzoni: è anche peggio di quando Totò spartiva il bottino fra i suoi clienti. 200 euro a chi allevava una capra girgentana, agrigentina, a 500 a chi accudiva in giardino un asino pantesco di Pantelleria, un contributo per la lotta mondiale contro l'inquinamento a chi viaggiava in nave, 12 euro per ogni chilo di manna tirata giù dall'albero. L'ultimo assalto alla regione è più sfacciato, ci sono di mezzo i parenti, scrive Attilio Bolzoni, e sono tanti. È così che Don Raffaele, cioè Raffaele Lombardo, eletto la scorsa primavera governatore della Sicilia, dice, scrive Bolzoni, sta oscurando la fama del suo predecessore, sopraffatta da una velenosa guantiera di cannoli. È un arrembaggio, più fratelli e cugini e più figli, e più nipoti e più compari. Lo scandalo è diventato scandalo con Giuliana, la figlia di Giovanni Larda, il giudice che Don Raffaele ha messo all'assessorato al personale, ma la lista di quei cognomi eccellenti assunti in regione è infinita. Quelli che hanno una parentela molto stretta e gli altri cognati, nuore, ex autisti, ex deputati, trombati, si comincia con Piero Cammarata, primogenito di Diego, sindaco di Palermo, e si finisce con una misuraca, parlamentare di Forza Italia, è uno scoma, assessore di Lombardo, con un Davola, ex autista di Gianfranco Micichè, e con un Mineo, figlio di un deputato regionale. Insomma, la lista è infinita. Sicilia, la parentopoli, si allarga ai big. I casi di Schifani e Alfano, con Lombardo continua il banchetto di Cuffaro o Cuffaro. Questo è La Repubblica che dedica la prima pagina. Anche Libero si occupa della Sicilia, vi dicevo, in modo diverso, su un altro tema, con altri toni, ma i toni sono sempre pesanti, perché Vittorio Feltri cosa scrive? Bancarotta Sicilia. Da mesi andiamo dicendo che il 90% dei problemi discende non dalla crisi finanziaria internazionale, non dalla crisi economica nazionale, non dal disastroso cambio della moneta, dalla lira all'euro mortale, non dall'invasione degli extracomunitari, non dai salari insufficienti ad arrivare a fine mese. Tutti fattori importanti e gravi, scrive Vittorio Feltri, ma nessuno decisivo. Il nostro grande guaio è l'eccessivo, assurdo, macroscopico appesantimento dell'apparato pubblico in alcune zone, diventato un ammortizzatore sociale, uno stipendificio, una sinecura per migliaia e migliaia di raccomandati e autentici mantenuti dalla casta, e mi scuso per il sostantivo abusato. Forse qualcuno avrà dubitato della fondatezza delle nostre reiterate denunce in proposito, di cui invece oggi abbiamo la conferma e la documentazione, che giungono da un rapporto arricchito da cifre crudeli della Corte dei Conti e dalla bancarotta conclamata del Comune di Catania, che ha dissipato pure gli spiccioli e non è più in grado di pagare i dipendenti un numero spropositato, e neppure l'energia elettrica, sicché la città è al buio. Non si era mai assistito, scrive Vittorio Feltri a proposito della Sicilia e del caso specifico di Catania, a uno scempio del genere, nemmeno in tempo di guerra. Siamo alla dimostrazione pratica dei guasti prodotti dalla banditesca gestione pubblica affidata a politici tanto avidi quanto incapaci e stolti. È impossibile prevedere dove andremo a finire, e non accusateci di catastrofismo, perché questa è una catastrofe ormai compiuta che richiede un ripensamento dei modi amministrative e una rifondazione degli enti locali siciliani. Per adesso siciliani, poi constateremo che la sciagura si estende a quasi tutto il mezzogiorno. Regolatevi, amici lettori, apprestati a nuovi sacrifici, altro che federalismo equo e solidale. Questo, insomma, quello che dice, perché dice: così facendo noi dovremo pagare un sacco di soldi per questi buchi e questi sprechi che ci sono al sud. Questo scrive Vittorio Feltri. Il quotidiano Libero, bancarotta Sicilia, vi dicevo, e poi in prima pagina anche una foto: il dittatore del Venezuela, compro io all'Italia, l'offerta del comunista Chavez. E questo Hugo Chavez, presidente del Venezuela, amico e fan di Fidel Castro. E se noi ci spostiamo invece però al Corriere della Sera, io voglio segnalarvi 2 cose degne tra le tante, diciamo, no? Che noi possiamo leggere di oggi, alcune degne di nota. Intanto un servizio di Aldo Cazzullo sul sito azzurro, gli insulti a Silvio, il caso Forza Italia, si va dai messaggi apocalittici a quelli previsivi o recriminatori, non mancano le minacce, ma la gran parte sono auspici sulla fine del Cavaliere, intendendo per Cavaliere il Cavaliere Berlusconi. Sono moltissimi e sono pubblicati non da oppositori, ma dal sito ufficiale di Forza Italia, nello spazio Sinistra Tolleranza. L'iniziativa è del parlamentare Antonio Palmieri, Berlusconi deve sapere, dice Palmieri, di che cosa si tratta e cosa scrivono di lui. E c'è tutta una pagina, anzi una mezza pagina, e il sito azzurro mette online gli insulti a Silvio, maledizioni e messaggi di odio su Forza Italia, Furio Colombo, errore, si fa un piacere al Premier, questo dice Furio Colombo. Messaggi apocalittici, il vostro padrone sarà concime per i vermi e voi sparirete dalla faccia della terra. Previsivi, tra breve si aprirà un nuovo fronte giudiziario e allora recriminatori, la colpa è di Togliatti, vi doveva uccidere tutti quando ne aveva l'opportunità, firmato Volante Rossa. Minacciosi, fatti processare o ti veniamo a prendere. Insomma, sono una serie di messaggi che il responsabile del sito web di Forza Italia, Antonio Palmieri, ha deciso di pubblicare con la ragione, con la, come dire, il ragionamento che Silvio deve sapere, è bene che sappiano questi insulti a Silvio Berlusconi. Nella pagina accanto, invece, interessanti, vi ricordate che ieri noi abbiamo aperto la rassegna stampa con le dichiarazioni del cardinale Angelo Bagnasco a proposito non solo della immigrazione, ma anche di tutto il tema del testamento biologico. E dal Partito Democratico tanti consensi ai vescovi per quel discorso molto duro sulla povertà in immigrazione che ha colpito e sul pericolo di razzismo, ma anche critica da chi? Dal Foglio di Ferrara. Sì, dice il Foglio, critica Bagnasco, la replica sbaglia Ferrara. Ferrara, smottamento verso l'eutanasia, e l'Avvenire replica, stavolta non hai capito. Questa è la critica. Io però sul Corriere della Sera voglio segnalarvi un altro, diciamo, che insomma non farà piacere a qualche sportivo, ma il Rocco Cotroneo, inviato, diciamo, corrispondente dal Brasile per il Corriere della Sera, firma un servizio da festa con il boss della droga, intercettato Ronaldinho. C'è la festa con il boss Ronaldinho intercettato, il ricercato è di Porto Alegre, come i due calciatori, il brasiliano del Manchester gli avrebbe prestato casa e auto. E qui leggiamo: ciao Ronaldinho, Gigi ci aspetta alla festa, è una chiacchierata di pochi minuti, i due parlano di una serata con musica e ragazze, niente di particolare, ma la conversazione al telefono cita uno dei più noti narcotrafficanti di Porto Alegre e mette in imbarazzo il campione brasiliano del Milan. Gigi è il soprannome di Richard Alex de Silva Martins, boss della città. È stato arrestato lunedì e sulla stampa brasiliana sono trapelate le intercettazioni che hanno portato alla sua cattura. Due i calciatori con i quali ha intrattenuto rapporti. Mentre con Ronaldinho ci sarebbe appena un contatto indiretto, l'amicizia appare assai stretta con Anderson, un attaccante ventenne che gioca da un anno nel Manchester United. Ronaldinho e Anderson, entrambi di Porto Alegre, sono buoni amici. Insomma, questa cosa qui è omessa e forse metterà un po' in imbarazzo, sì, il grande campione, ma questo è che viene pubblicato dal Corriere della Sera. Ci sono anche le foto in prima pagina su quasi tutti i giornali del mondo: uccide 10 compagni in scuola, voi sapete, suicida dopo la strage, aveva annunciato tutto su YouTube. Io volevo ancora rimanendo sulle non non curiosità, perché poi non si tratta di curiosità, il giornale, l'apertura è critica nei confronti di Walter Veltroni. All'Italia Veltroni fa la letterina, e qui il giornale invece fa del sarcasmo su Walter Veltroni. Il leader del PD rientra dagli USA e scrive al Premier: tre proposte per uscire dallo stallo, il governo soltanto banalità, Berlusconi cerca invece la mediazione, serve una compagnia di bandiera, e cae di nuovo in pista, ma il piano non cambia. Questo dice, avverte Silvio Berlusconi. Curiosa invece una notizia sempre sul giornale di Luca Fazzo: Mussolini è tornato alla luce dopo 60 anni. Al terzo piano del Palazzo Giustizia di Milano, su imputati, avvocati e giudici, incombeva il grande affresco: Cristo in trono, una donna genuflesse, accanto a lei i potenti della terra, Virgilio, Napoleone e una grande macchia arancione, perché all'indomani della liberazione l'affresco era stato censurato per fare sparire l'immagine di Benito Mussolini. Sì, e quindi davvero Mussolini torna a Palazzo di Giustizia di Milano. Tante ovvietà e ne manca una: il Salvatore Tramontano invece, che si occupa con un editoriale di Walter Veltroni. Dunque Walter scrive letterine, non per i suoi libri a Patrizio o agli scopritori dell'alba che popolano i suoi romanzi, che non ci sarebbe nulla di male, ma scrive al Presidente del Consiglio Berlusconi sul futuro dell'Alitalia. Insomma, una critica anche con l'editoriale di Salvatore Tramontano. Dunque, se il quotidiano Il Giornale ironizza sull'iniziativa di Walter Veltroni, che ha scritto una lettera a Silvio Berlusconi su all'Italia per rilanciare e riaprire la trattativa, l'Unità ovviamente, direi, prende molto seriamente l'iniziativa e apre la prima pagina: all'Italia la mediazione di Veltroni, lettera a Berlusconi, convochi le parti, la CAI torni al tavolo, magari con partner esteri. Colaninno apprezza, si apre uno spiraglio nella crisi, Epifani scongiurare il fallimento. E quindi, diciamo, si enfatizza l'iniziativa politica di Veltroni per valorizzarla. Il quotidiano Unità oggi dedica la pagina 5 a un episodio, diciamo, di relazioni sindacali, chiamiamolo così. Confindustria caccia Pellegrino. Dura la censura dopo la volgare lettera ai sindacati del padrone della Pecoplast. Lui si dimette, e scrive Massimiliano Amato sull'Unità: se n'è andato lui, ma solo perché non hanno fatto in tempo a cacciarlo. Rosario Pellegrino, titolare della Pecoplast di Salerno, indotto Fiat, Indesit e Saeco, ha giocato d'anticipo. La sua intemerata contro il sindacato: vi prendo a calci nel sedere, vi sputo in faccia, andate a fanculo, e altre delicatezze del genere, tutto in nero su bianco, in un fax inviato alla CGIL il 19 settembre, aveva convinto il presidente di Assindustria Salerno, l'armatore Agostino Gallozzi, a scrivere una dura reprimenda inviata anche al direttore dell'Unità, che ha reso nota la vicenda. Esprimo vivo disappunto e profondo rammarico nel leggere le espressioni da lei indirizzate al segretario generale di Filcem Giovanni Berrito. Insomma, la lettera praticamente viene pubblicata e indirizzata anche alla dottoressa Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, e insomma si è risolta con le dimissioni di questo signore imprenditore. E poi Marco Travaglio invece scrive Forza Grecia. Nell'ultimo rapporto di Transparency International sulla percezione della corruzione nel mondo, pubblicato ieri, l'Italia guadagna 15 posizioni rispetto all'anno scorso, nel senso che è percepita molto più corrotta di prima. Nella speciale classifica dei paesi meno corrotti siamo al 55esimo posto, a pari merito con le Seychelles, sopravanzati a modelli di onestà come Sudafrica, Malaysia, Giordania, Costa Rica, Capoverde, Bhutan, Macao, Bahrain, Oman, Mauritius, Sud Corea, eccetera, eccetera. Insomma, un articolo che riprende dati già dell'anno scorso, rinnovati naturalmente quest'anno, e che dice che siamo messi male in quanto a percezione di corruzione nel mondo, almeno secondo questa organizzazione che si chiama appunto... un'organizzazione che ogni anno fa un rapporto, Transparency International. Questo sul quotidiano L'Unità. Il Staino invece, sempre sull'Unità, una vignetta: ferrovie, vietato lo sciopero per il compagno ingiustamente licenziato, allora lo facciamo per i ritardi, per le poche corse, per il materiale fatiscente, per le latrine immonde, per i prezzi altissimi, dice la figlia del personaggio di Staino. Il Manifesto invece oggi lancia un allarme estremo. Il quotidiano, fondato da Parlato, Rossanda e Pintor, oggi c'è una pagina particolare: una nuova emergenza bussa alle nostre porte, fateci uscire, nel senso che c'è il rischio che non esca più in edicola se non ha qualcosa di simile alle tante dei nostri 37 anni di vita, perché sempre i bilanci in rosso si tratta, ma è molto diversa da tutte le altre crisi, dice, si legge in questa lunga pagina tutta scritta. Quello che ci assumiamo e a cui vi chiediamo di partecipare è un compito tutto politico. I tagli ai finanziamenti per l'editoria, ecco il punto, cooperativa e politica, non sono misurabili solo in euro. I bilanci che precipitano nel rosso, in giornalisti e poligrafici che rischiano la disoccupazione, sono lo specchio fedele di una cultura politica che, dall'alto di un oligopolio informativo, trasforma i diritti in concessioni, i cittadini in sudditi. Ecco dunque l'appello estremo, fortissimo, del Manifesto per un aiuto, di nuovo una sottoscrizione per poter sopravvivere e non chiudere. Questo il Manifesto. Il Riformista, eppur non si muove, sì, sull'Alitalia non sembra credere, insomma, da questo titolo, al fatto che qualcosa possa cambiare. Veltroni tenta di ammorbidire la CGIL, Berlusconi ci prova con Colanino, ma il piano non cambia. Ecco, questo si legge sul Riformista. Trattativa sembra il gioco del Cerino, Stefano Cappellini, a proposito di Alitalia. E infine il messaggero titola ovviamente, anzi, Alitalia, CAI torna in campo, con la lettera di Veltroni, ma poi le due dominano la prima pagina del Messaggero, le due notizie di cronaca, una davvero che sappiamo dalla Finlandia, uccide 10 compagni e poi si spara a scuola, le minacce su YouTube, e poi quella romana: Roma accoltella il parroco in chiesa, folle ferisce altre 2 persone, poi viene fermato, in tasca un foglietto, sono l'anticristo, tragedia della follia ieri a Roma, un parroco e un anziano sono ricoverati in gravissime condizioni, aggrediti da un ragazzo di 25 anni che, in preda a un rapto di follia, ha ferito anche una donna e un poliziotto. Il giovane ieri mattina è uscito di casa nel quartiere di San Saba con 2 coltelli infilati sotto la giacca. Ecco, insomma, 2 fatti di cronaca, uno ai noi più tragico, quello che viene dalla Finlandia, e questo, insomma, che ha rischiato di fare anche qui tragedia, e comunque tragedia solo perché ferisce altre 2 persone e accoltella il parroco in chiesa, meno violento, diciamo, ma insomma folle ugualmente. Questo si definisce l'anticristo. Se uno di questi c'era scritto "ora vi finirò tutti", si è recato nella chiesa di Santa Marcella in via Dandini, dove ha chiesto di parlare con il parroco, poi ha scatenato il terrore, in preda a una lucida follia ha coltellato il religioso alla gola e al petto, ma non era finita: il ragazzo ha piantato la lama nel torace e nel collo di un fedele che si trovava vicino al parroco. Ecco, questo è il... sono alla cronaca scritta dal Messaggero sul momento di terrore a Roma, e con questa segnalazione mi pare aver esaurito il mio tempo a disposizione. Vi ricordo sempre che dalle 8.30 alle 9 c'è il microfono aperto, potrete telefonare all'800 24 00 24 per intervenire su tutti gli argomenti su cui credete di dover intervenire. A dopo.